non sa che è combinato oggi, non sa che è combinato, illumina. Cosa vuoi illuminarti? Non ci faccio nulla. Ti aiuta da pure i nomi, che boh. A me ti sei svagato di più oggi. Hai fatto bene, bisogna collaborare. Sì, insomma, collaborare. Non è che devi stare sempre seduto, e l'altro che sta facendo tutto il giorno. Vabbè, mi sono dato da fare un po', fatto di tutto. Hai fatto tutto bene, devi fare così. Bisogna collaborare nella vita, se si vuole andare avanti, bene. Sì. Mi ha chiamato ieri sera, mi ha chiamato Marino, c'era la messa di coso. Io ero impegnato ieri sera, ero poi andato. Oh. Ti ha trattato che c'ero io vicino. Ti ha telefonato il dottore, quando dovevo telefonare al dottore mi sono dimenticato. E allora ha preso il telefono e ti ha telefonato. C'ero io quando ti ha telefonato. Eravamo già in chiesa. Allora non potevo venire. Ero impegnato, ero. Sono uscito, sono andato allora, come che mi hanno chiamato. Ho dovuto fare quello che ho dovuto fare. Vabbè, se uno è impegnato, chiaro. Ma lui le fa male l'incenso, so. Ma sì, a Marino. E allora a me? Io non mai vado mai in incenso a Edo. Se non vende incenso. Ma. E poi si è deciso. Io sono entrato dentro e gli ho sempre detto finché l'ho finito. Ma lui è uscito fuori un baffo e poi meno male è entrato e ha collaborato là. Sì, a me pare che mi piace questa la messa. Ecco cosa è. Allora cosa ci fa fare? Per la presenza, anche la presenza fa bene, va. Anche la presenza è giusto che sia così. Quello sì, anche la presenza fa bene. Purtroppo. Ma gli era finita la risetta. Esatto, infatti era stessa tempo. Era longa, longa. Oh, era piena, piena zeppa la chiesa, Era piena come il giorno del funerale. Quasi tutti li conosco, la gente che abita qua giù, intorno a loro, li conosco quasi tutti. Infatti, si conosco quasi tutti, allora. Esatto, non mi fa dovere, ha telefonato e già me l'ha detto già mia figlia, che la figlia l'aveva già telefonato a dirla a me che era la messa, e poi ha fatto anche luci più tardi, per cui lo sapevo già, ma era andato anche, già lo sapevo, va. Sì, vabbè. Basta solo la presenza, ma ça va benissimo lo stesso. E anche quello doveva fare, sto cazzo. Anche quello bisogna fare, specialmente quando la persona si conosce, certo. Magari chi non lo conosce. E certe volte si va anche alle persone che non si conoscono, però la maggior parte quello che conoscono è più forte, va. Troppo. Adesso sta bene dove non soffre più. E sta meglio. Io lo credo bene. Certo. Un bel c'era, cazzo, era malmesso, per cui ha finto il suo fine per cui forse ha fatto bene per stare come era meglio che ci adatta quindi fare. Quello sì, purtroppo non c'era più niente da fare, a rimanere come figli la gente. Ah, chissà, com'erano la moglie e il figlio? In questi casi magari era di meno le più calme, dai, adesso prima, dai, però ti piaccio sempre, dai, finché l'ho fatta, già fatta piano piano, dai, e purtroppo è una rassegnatura, capito? È arrivato al punto uno si deve anche rassegnare, tanto tu ti batti, il Goggio è sempre lì dalla regione, purtroppo non si può fare niente, la vita purtroppo è fatta così. Siamo solo dei bastardi, da piccolo diventiamo anziani e poi ce ne andiamo a tornare all'altro mondo, da Gallo siamo giù. Forse dovremmo andare scritto, forse dovremmo andare scritto domani. Infatti così, boh, purtroppo è così. Eia, purtroppo. Ah, c'è un silenzio dei baracchini, cazzo, non c'è un'aria, ma è. Già prima di Natale c'è un silenzio, non finisce tutto. Vuol dire che tutti si sono ritirati. Pensavo il fan. Purtroppo, tutti si sono ritirati. A Marino le era caduta l'antenna, a quel resto gliel'ha troncata sul basamento, gliel'ha toccata l'antenna al ma la doveva abbassare, cazzo, c'aveva qualcosa per abbassarla, la poteva abbassare, no, e tenerla bassa, ma la passava al vento, la sollevava, certo, e non si può aggiustare più quella lì, ormai è rotta proprio dove c'è la carica, capito? E per cui va, io non ci ho perso niente, dai, dispiace, va bene che si è rotta, però intanto lo devi chiudere, è una tenda del banco, però dispiace la tenda, ho visto che l'altro giorno stava facendo. Ma dai, quando vedi che c'è vento così, c'hai le cose di poterlo abbassare. Abbassava, non gli succedeva nulla, invece. Anche se l'ha riparata, nel luogo che tira via, lo vento di un cavallo matese. E mica anche la tua figlia ha vento, molto vento. Però non si è pigiata, e l'hai seguita evidentemente. Era più debole in quel punto, capito? Da che cosa è successo? Altro caso, ragazzi lì, cacca, c'era qualche cosa che non era perfetta lì, capito? È precisa la tua. Ma è precisa la mia, ma la mia c'è un tubo di PVC, tubo di plastica che la tiene da una parte fino a 2 metri, quindi non è tanto facilmente a troncarsi, non c'è più già da rata pure che va giù vicino, certamente da Marino il vento era più forte che gli era rotto, certo, canta fatta a portarti ragazzi, gira qui, gira là. È da voi, cazzo, aveva fatto un bel lavoro, aveva fatto un bel lavoro, cazzo, la poteva abbassare, sì, cazzo, invece, casa a casa, ed ecco che è successo, lui ha aperto il sacco. Ma non gliel'ha fatta come l'ha fatta a me, ecco cosa è, non gliel'ha fatta come l'ha fatta a me, che a me me l'ha riportata, ecco cosa è. E non si dronca tanto facilmente. Ma io ho visto quello che aveva fatto Emanuele. Forse quella che aveva Emanuele, quella lì, non lo so, solo se l'ha da qualche lato. Ho visto quello di Emanuele, cazzo, era robusto il zampella, cazzo. L'ho vista in terra, è lunga, lunga, l'ha fatto rinastrando, cazzo. Cazzo di zampella, poi era robusto, e a troccare non era facile. Eppure il vento gli ha rotto. Vuol dire che era fatta Bellumizio l'ha fatta, ecco cosa è. Perché a me, nella mia, mi ha messo quel coso espanso dentro. E più gli ha messo un tubo fuori, gli ha messo un tubo da 2 metri, dalla carica in su. Quindi no, non si tronca così facilmente. Si bigia un poco, però non arriva di nulla. La piena di schiuma è dentro, sto. Sta piena di schiuma dentro. Non lo so se ne ha messo di quella schiuma. Però a me mi ha messo anche un tubo di plastica grosso, che non la fate bigiare per gli soldati. Vabbè, di questo lo so, forse sarà. Ma se forse la tua è rinforzata, dai. E la tua magari perché era meno rinforzo, dai. E gli ha rotto per forza, cazzo. È un peccato, è un peccato. E poi lo si può aggiustare, quello è il punto. Se si può aggiustare, va bene. Ma non si può aggiustare perché è proprio dove c'è la carica, capito? Ho capito, sì, che dove c'è la carica. Ma purtroppo io lui c'ha qualcosa anche di abbassarla, e la poteva abbassare lì e tenersela bassa, ecco cosa è. Purtroppo no, l'ha lasciata così, dove essere a voci e a rivederci. Lui magari si immaginava che succedesse qualcosa del genere, se no l'avrebbe abbassata, perché già ci aveva la possibilità di abbassarla con facilità, capito? E invece magari si è trascurato, non va pensando a abbassarla, pensando che non resisteva, e invece l'ha resistito e allora è andata giù, staccato là. Abbiamo il grande travaglio che tu fatto, un cazzo al timbato. E infatti così, purtroppo. Oh, io vado là tra vicino. Mi ha visto come si è cucata. Non l'ha fatto nulla. E anche la mia vedevo, ero lì dalla frutta e di frutta. E sono girato e l'ho vista quasi orizzontale la mia. E la mia più fine. Eppure non è successo niente. Sembra tutto a posto, cazzo, rompersi così come ha fatto quella là, strana, per dire la mia era più rinforzata attorno. Fate così, io lo so, questa che sto usando adesso, a questa lo stesso, non gli ha fatto nulla, non gli ha fatto, ed è tutta in alluminio, chissà, non gli ha fatto nulla. È in alluminio, l'ha fatta a rompere l'alluminio, la plastica magari cazzo, posso fare un punto debole e lì si pigia, non so perché sia successo proprio lì, perché la forza la faceva dove, la più forza la faceva dove c'era la carica e dove c'era la staffa, per quello che la pigi piegata e la rossa, peccato cazzo. Infatti, è un peccato sì. A meno che non gli mette qualche rinforzo e dagli arrubetto, gli cava rubetto in 10 secondi. Torno a rimettere. È tutto da vedere come la... Roberto? Dice che non ci può aggiustare. Dice non si può aggiustare, sto, scusi, ma adesso mi fui, ma se gliel'avrà controllata, no? Gliel'avrà controllata lui, ce l'ha fatta. non lo so. E lui mi ha detto, dice, no, dice, non si può più aggiustare. E beh, fatemi fa un'altra. Fatemi fa un'altra. Ah, per me mi l'ha fatta a rami da frutto, mi l'ha fatta, che sennò se l'aveva fatta come ti ha fatto a me non si era troncata. E beh, mi ha dato anche il materiale da mezzo, certo. Ma in realtà ha messo quella roba più buona, e beh, si è andata bene, là, si è andata bene, mentre a Marino è andata male. Ma succede anche queste cose, so. Ma sì, Susi, a meno che non sono i compare già una come te la duia, va. E si rabbiassa. Ma cosa ha avuto i soldi adesso? Passiamo il tuo mucchio di soldi, mi sembra cosa 180 euro e più, mi sembra. Cazzo, ha aumentato bene, un bel betto, cazzo, beh. Però anche la mia la potevo fare anche più robusta, con materiale più robusto. Ma evidentemente è stato calcolato il tipo del materiale che resiste. Se no magari fosse stata più grossa sarebbe stata l'ideale. Però ho visto che non si è piegata, vuol dire che già resiste in quelle condizioni di tipo della prolunga, capito? Sì, infatti. Purtroppo è così. Purtroppo mi è andata a fine di essere segata. Boh. Ma diciamo, o non c'è via il materiale che va via. Si va a troncarsi così. E io ho pensato a quello, che era un materiale magari più, era un materiale più scadente, capito? Si è rotta per quello. Se no non si doveva rompere, no? Non lo so. Però gli ha detto, cioè, non si può più aggiustare. Certamente gliel'ha detto anche lui, boh, lo so, avrà parlato anche con lui di questo fatto. E quanto ce l'aveva? Nemmeno un anno, così è. Manco un muro, andava per la via 6 mesi, 6, 8. Cazzo, una garanzia c'è. E allora però mi ha detto, tu me la per fare la sembra, cazzo, perché io te l'ho pagata. Vabbè, non è che te l'abbia fatto pagare proprio a prezzo, perché una sera come ce l'hai tu, ben fatta, dovrebbe costare, ma cosa? Altra cosa. Infatti è così. Purtroppo è così. Vabbè. Se ne faceva un'altra, giravo, ne faceva però più buona, è fatta bene. Beh, infatti, quello che lo so anch'io, dovrebbe essere garantita, no? Certo, e a rompersi così, certo. Poi, salvo che non me l'ho fatto qualche danno facendo quel lavoro che hanno fatto, ma non so. Vedranno loro là, vedranno loro cosa fare, o no? Infatti, lo rivedo. Se ne capa un po' caretta di spiccioli, da busciacara, e ce la fate fa. Sì, non vorrei farmi, non fa più a rifare una santena. Non penso un po' che ha di farmi uno, non siamo a quel punto, vai, sto. E per cui potrebbe anche farsela, oppure se non serve un'altra antenna, ce ne sono antenne buone, robuste anche, perché è un bel pulverino, ce ne sono robuste altre antenne che non si facciano magari a 100 all'ora, a 150 all'ora. Noi abbiamo passato i 110 all'ora, abbiamo passato lì, ma a me tirava a volte roventoli. Un bel forte, eppure tutte e due hanno resistito. Marino, in quella zona a ottava si passa di più di vento, stazione lì è tutto libero e per cui il vento è più forte di, che da noi. Sì, vabbè, caspita, ma dobbiamo vedere come si era e abbassarsila. Ecco cosa è. Ah, vedete quel vento che c'era dal giorno prima, che perché dal giorno prima era ventoso forte, e abbassarla direttamente. Quello lo sappiamo fare benissimo, è facile. Abbassala una volta che c'è la possibilità di farlo, con facilità, allora dovevo fare. Ma fatti su, insomma. Oddio, ho dimenticato o si è trascurato. Fatti su, insomma, rotto. Sì, infatti. Ah, ce la zecca una trentena. Si può uscire. No, pazienza. Certo. Ehi, ehi, beh, certo. No, io... me l'avrei detto. No, a me me la rifai la tenda. Perché io sono appagato, ci ho messo una garanzia sulle antenne, certo, come se compriamo lui, c'è una garanzia, mi sembra che sia, non so quanto è, se un anno o due anni di garanzia che ci danno, boh, non l'ho letto io il conto, insomma. E per cui se si rompe, certo, me l'aveva ridato o no. Ah, ma me l'ha data che era garantita, quindi... Quindi come ti ha riportato? Era la lampada bannita. E allora mi avrei toccato il fondo, a me me la rifai la tenda, perché ti ho pagato e voglio sapere che in grazia di Dio, no, non c'è la di bambino, cazzo, a tagliare la cucina. E vabbè, si arrangerà da stagioso, si arrangerà da stagioso. Quanto devo chiudere, dai, ci sentiamo domani se coltive. Grazie alla chiacchierata, a buon proseguimento, ci sentiamo domani, dai. Ok, Gianmari, al prossimo. Ciao Gianmari, stammi bene.